primo comandamento. Non avrai altro Dio al di fuori del re. Almeno per il momento. In principio era il DJ, qualcuno prese un mixer, un giradischi e cominciò a fare gli scratch, a campionare e miscelare suoni, arricchendo il flow con quelli che per molti sono solo rumori. Arrivarono gli MCs, gente invottata, che per la strada cominciò a fare freestyle, raccontando in tempo reale la vita del ghetto, storie narrate e distinto, espressione di un concetto. Poi ci furono i b-boys, il ritmo nelle vene, break sul linoleum, nelle strade come arene, beatbox, adrenalina e percussioni, un flusso di energia accompagnava quelle esibizioni. E venne il tempo dei writers, con in mano bombolette si creavano murales, e l'arte in movimento fatta di talento, tag su vagoni o su un muro di cemento. E così nacque l'hip hop, nacque un movimento, una cultura afroamericana seguita in tutto il mondo. Come milioni di persone nutre il malumore con concetti nudi e crudi dalla strada con amore. Non avrai altro dio al di fuori del rap, come non avrai un pezzo school senza gli scratch. Prima è più dio quale rimedio all'ateismo di ciò che passa in radio. On the beat LZ. Hip hop come Yoruba senza offerte, armi gli spray che ci difendono dalle ferite inferte. Le tag ci segnano, ci identificano, sono le basi per comprendere il Levitico. La che è una setta, le dottrine sull'amore per chi ci rispetta. La mia Madonna, la doppia H, vittorie nei freestyle, andare a caccia. Porto un gris gris al collo, è un medaglione con il soldo. Una rima in quattro quarti esoterica, è la bellezza di un Corano scritto metrica. Mi sono preso un'opportunità, rapper di mezza età. Il mio Dio veglia su di me, dall'aldilà. Non so chi sia, il mio messia. Tu ascolta la tua religione, io la merda mia. Il b-boy vive per le strade, l'MC sul palco, il DJ sui piatti, il rider vive di notte. Una vera e propria religione che azzera il gap. Non avrò altro Dio al di fuori del re. Il rap non ha un dio, ma per molti è dio. È sul tetto del mondo, come la statua del Cristo di Rio. Prime come comandamenti arrivano dall'alto. Tupac li detta, io li raccolgo dall'asfalto. Ascolto rap, leggo o rileggo il mio Vangelo. Spingo Notorious, che sta spingendo un Barty su nel cielo. Sono un uomo in carne e rap, nelle vene sangue inghiosse. Recito rime come il Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei cieli, alza il volume e fa danzare gli angeli sui grattacieli. Qui c'è musica che aspetta di essere suonata. C'è una rima che aspetta di essere cantata. Impara a suonare, comincia a scrivere. Dentro ognuno di noi c'è qualcosa che vuole vivere. Non lo considero il più grande dono che mi è stato dato. Mi ha aperto gli occhi, gliene sarò per sempre grato. Non avrai altro dio al di fuori del rap, come non avrai un pezzo school senza gli scratch. Il b-boy vive per le strade, l'MC sul palco, il DJ sui piatti, il writer vive di notte. Rime più dio quale rimedio all'ateismo di ciò che passa in radio. Una vera e propria religione che azzera il gap. Non avrò altro dio al di fuori del rap. Rime più dio quale rimedio alle mie giornate, quelle sotto assedio. Me più dio uguale medio, il dito che vi mostro dal primo giorno, quello dell'esordio.